got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. You've got to laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. And when the world is through with us. Bentornati a Indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 anche questa sera sulle note delle musiche di Indovina chi viene a cena, questo film del 1967 da cui abbiamo preso in prestito il titolo e da cui prendiamo spunto. Erano 50 anni fa e 50 anni dopo ci facciamo ancora più o meno le stesse domande, le coppie miste si fanno talvolta le stesse domande. Stasera abbiamo l'autrice di un libro che è stato pubblicato per Cairo Editore, Lo sposo africano. Io do il benvenuto a Elisabetta Jankovic. Buonasera a tutti e soprattutto a te Valentina, grazie di avermi invitato qua. Giornalista, scrittrice, tra l'altro non sei aliena ai microfoni perché lavori per la Radio Svizzera e per Radio Popolare, hai lavorato. Sì, diciamo che la radio rispetto ai mezzi di comunicazione è quello che preferisco dopo la scrittura, se possiamo chiamarla mezza di comunicazione la scrittura. E so che ci ha portato un piatto, no? Beh, ho portato uno dei miei piatti preferiti, senegalesi, e qua già focalizziamo su quale parte dell'Africa andremo un po' a parlare, che è il cebujen, che è il riso con il pesce. Il riso è un po', credo in tutta l'Africa, in Senegal sicuramente l'equivalente della nostra pasta asciutta, nel senso che c'è sempre in ogni occasione un bel piatto di riso, e il cebujen è con il pesce ed è particolarmente ricco e saporito. In questo romanzo, Lo sposo africano, racconti una storia d'amore attraverso molti anni di una ragazza italiana, di una donna italiana e di un uomo del Senegal. Racconti spesso anche di cibo, no? Di queste preparazioni lunghissime senegalesi. Sì, una cosa che fin da subito, una delle cose che spiazza la protagonista, che aveva spiazzato anche a me perché anch'io ho conosciuto uno sposo senegalese, diciamo così, è stato quello di mangiare tutti insieme in uno stesso piatto, e il riso è proprio, si presta decisamente meglio che gli spaghetti, e con le mani. Ed era una cosa che all'inizio mi sembrava un po' troppo tribale, e in realtà poi non è che mangio tutti i giorni con le mani, però in particolari occasioni e per particolari piatti il mangiare tutti insieme intorno a un grande piatto con le mani è già, ti dà una visione del mondo, insomma, della condivisione, che era piaciuta molto alla protagonista del libro e devo dire che era piaciuta anche a me. Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre. Quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. La protagonista è Nina, italiana, milanese, di origini slave, e lo sposo del titolo, l'incontro che fa in questo libro e che questa storia d'amore è con un ragazzo appunto senegalese. È una storia che rispecchia un po' anche la tua biografia. È nata da questo, dall'esigenza, sì, di raccontare qualcosa. Sì, è nata poi la protagonista come come spesso accade, poi ha preso le sue gambe ed è andata per i suoi percorsi, però inizialmente era nato proprio le prime pagine, diciamo, hanno quasi un ritmo diaristico, perché mi è venuta l'esigenza di raccontare o di provare a raccontare cosa vuol dire e che cosa può voler dire incontrare un uomo di un'altra cultura, dal fatto che le amiche prima di tutto erano sempre molto curiose di sapere come si svolgeva la vita quotidiana con accanto una persona che aveva un modo di vedere il mondo spesso diverso, lontano, però non per questo meno interessante. Questa curiosità che ho visto intorno a me nel sapere cosa ne avevano pensato a dire, ad esempio, i miei genitori, piuttosto che come erano i rapporti tra lui e la famiglia d'origine, mi aveva spinto a scrivere. Poi appunto è giustamente un romanzo, però può essere un buono spunto di riflessione anche per chi magari sta vivendo una storia mista, ma anche con per chi assolutamente ha scelto, diciamo, i buoi del proprio paese. Questo modo di cucinare così diverso è anche un modo di vivere diverso. Sì, considerare non tanto l'individuo ma il gruppo e la famiglia, la tribù quasi, mi verrebbe da dire, è una cosa che noi in Italia, in Europa, abbiamo un po' dimenticato. Forse i nostri nonni vivevano insieme ai figli, insieme ai figli dei figli, e quindi c'era una compartecipazione della vita quotidiana. Oggi noi siamo molto più individualisti e qua non c'è un giudizio di merito, è meglio e peggio. Il vivere con una persona che invece viene da un'altra cultura come o da un altro continente come l'Africa ti porta invece a vedere come lui in questo caso ha bisogno di condividere non solo il cibo e il momento del pranzo, della cena, però tanti momenti della giornata. E questo sposo africano, oltre che essere circondato da una famiglia allargata, è anche islamico e ha anche un'altra moglie. Ecco, questo è un altro punto estremamente delicato, perché poi è molto, come dire, non vorrei che fosse, quando uno manipola, cioè non è il racconto della protagonista che incontra questa realtà della poligamia. Non vuole essere un'esaltazione della poligamia, è chiaro che mette in discussione alcuni principi che la protagonista pensava inattaccabili, inossidabili. Anche dentro di lei. Anche dentro di lei, e quindi è uno spunto per riflettere dei vari modelli che possono esserci in una società che appunto si apre e incontra altre realtà, e quindi approfondisce il discorso, appunto, secondo me, del matrimonio anche monogamo in una maniera più complessa che semplicemente considerare la poligamia come se fosse di per sé sbagliata la base, e non prendere in considerazione la complessità che anche qui c'è, la nostra sfida oggi, anche appunto con tutto il discorso del fenomeno delle migrazioni, è quello di prendere in considerazione la complessità del fenomeno e non la banalizzazione. Ecco, non vorrei che si cerca di non banalizzare il discorso della poligamia, però certo la protagonista deve farci conti. Ci fermiamo brevemente, torniamo con Elisabetta Jankovic e lo sposo africano tra pochissimo. Il mio piatto migliore quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer vi presenta You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Torniamo in onda con Elisabetta Jankovic e con il suo romanzo Lo sposo africano. Ci stavi raccontando, Elisabetta, di questo incontro fra culture, e nell'incontro fra culture di questa ragazza italiana, di questo sposo africano, e c'è questo dialogo fra i genitori e la ragazza, genitori tutto sommato che hanno vissuto una esperienza simile, perché il padre della protagonista è un profugo, no? Sì. Dall'est europeo, e però chiede un po' di informazioni su questo futuro sposo. A un certo punto la mamma, questa signora molto elegante, chiede: ma nero nero? Sì, anche qua devo dire che questa parte del romanzo è abbastanza autobiografica. E anche tu, tra l'altro, hai origini... Sì, origini slave, mio padre è serbo, e quando si è trattato di presentare la persona di cui mi ero perdutamente innamorata, nera nera immaginavo che non ci sarebbero stati nessuna problema concreto, perché sono sempre stati molto aperti i miei genitori, e tra l'altro, appunto, mio padre stesso non è italiano, per cui... E nell'incontro con i suoceri aveva avuto all'inizio un po' di diffidenza, naturalmente, aveva subito un po' di preconcetti, poi però è stato molto amato in famiglia. Assolutamente, stiamo parlando degli anni 50. Io non ho letto diffidenza nei confronti dei miei genitori o della mia famiglia per lui. Forse più gli amici hanno sollevato delle obiezioni, le amiche... Sì, le amiche, per motivi molto pratici, nel senso che le abitudini quotidiane di chi non è cresciuto, diciamo, in Europa, sono veramente a volte molto difficili quasi incompatibili, nel senso anche l'orario. Le amiche invitano a cena la protagonista e il suo fidanzato, e non riesce mai a arrivare puntuale, ma non in un ritardo di 10-15 minuti, in un ritardo che può arrivare anche all'ora, e quindi a un certo punto la protagonista dice: vabbè, o faccio le cene da me oppure mi costa troppo, no? Vabbè, perdo noi alle delle cene amicizie. Tarde siamo abituati, andiamo in onda alle 21, però in effetti ci sono delle difficoltà, delle differenze proprio anche nell'approccio alla vita, un po' fatalista, un po' aperto, dicevamo prima, ad esempio, all'idea di avere più di una moglie. Sì, allora, questa apertura, mentre alcune differenze mettono proprio in crisi profondamente la protagonista, e in più di un momento nel romanzo sembra quasi che, appunto, lasci il colpo e sia decisa a trovare qualcun altro accanto a sé, l'apertura invece in certe occasioni, come l'apertura alla vita e una gioia proprio quasi irrazionale, anzi irrazionale, che il protagonista riesce a mettere in qualsiasi difficoltà deve affrontare, in qualsiasi occasione che gli capiti, è la cosa che tiene la protagonista più legata a lui. Cioè questa idea che bisogna navigare sulle onde, sulle difficoltà, che tutto andrà bene. Esatto, e che comunque non tutto è sotto il nostro controllo, perciò è vero che il fatalismo magari non ti aiuta a progredire, però certo ti fa accettare anche i tuoi, tra virgolette, fallimenti, che peraltro è una parola che non ho mai sentito tra i miei amici, appunto, senegalesi, perché il fallimento è legato, noi lo leghiamo alla nostra cattiva o incapacità. Invece in una visione un po' più fatalista, il fallimento in realtà è un disegno più grande di qualcuno che è al di sopra di noi, e che quindi non è neanche tutta colpa tua, che sei piccolo e umano. E poi un'altra cosa che ci terrei a sottolineare è che leggendo questo romanzo spero che si capisca che la protagonista non perde le proprie radici. Non si tratta che nell'incontro tra culture c'è chi deve vincere, c'è chi deve imporsi, ma è proprio un lavoro di incontro, per cui in certi aspetti uno segue l'altro e si piega, insomma, si accoglie le istanze dell'altro, e in altri aspetti è l'altro che invece cerca di capire le ragioni della protagonista. Quindi non si tratta di una cultura che deve dominare sull'altra, ma attraverso, in questo caso appunto, l'innamoramento, l'amore, la fascinazione, trovare proprio un incontro. Questo è importante, perché sennò si scade, ed è molto pericoloso a mio avviso, nella lettura che una cultura debba dominare. Quindi lui non rinuncia alle sue, nel libro, alle sue convinzioni religiose, ci mancherebbe, lei non si converte, lei apprezza di questa sua anelito spirituale alcuni aspetti, senza, che poi la modificano naturalmente, però non c'è un vincitore tra le due culture. C'è poi l'incontro di lei con la famiglia di lui in Senegal, e lì sembra quasi che ci sia un razzismo al contrario, nel senso che c'è un grande abbraccio verso questa giovane donna, però lei sente una diffidenza. Assolutamente, io credo che la diffidenza verso l'Occidente, da tante culture non solo africane, sto pensando a delle amiche indiane che ho, e ci sia, cioè l'idea che in Occidente si siano persi certi valori fondamentali, che l'occidentale, che sia maschio, che sia femmina, sia meno serio, meno responsabile, meno generoso, sia un egoista. In Senegal noi bianchi siamo chiamati tubab, e non è necessariamente un insulto, anzi assolutamente non lo è, però vuol dire che sei un pochettino, un po' pesante, un po' pignolo, che pensi solo a te stesso, che sei puntuale. Naturalmente ci sono anche gli aspetti positivi. Quindi credo che sì, anche le altre culture, ed è questa la sfida dei prossimi decenni secondo me, devono mettersi un po' in discussione. Hanno accumulato dei pregiudizi e noi siamo ai loro occhi meno affidabili di, non so, di una sposa senegalese o di uno sposo indiano per gli indiani, ci siamo fatti questa brutta fama, diciamo, di essere un po' forse... Quindi da una parte e dall'altra resistono i pregiudizi, quello che unisce questa coppia è l'amore, no? Il desiderio di maternità di questa protagonista si coniuga poi in un accogliere, non vogliamo svelare il finale, ma in un accogliere i figli del marito, no? La famiglia, quindi sì. Una situazione che probabilmente lei non avrebbe mai immaginato. Ecco, infatti, e tu hai detto che l'amore è una cosa che tiene uniti sicuramente, ma io aggiungerei anche la curiosità, sia da parte della protagonista femminile che di quella maschile. Per incontrare l'altro comunque devi essere curioso. Succede anche se incontri il tuo vicino di pianerottolo esattamente con i tuoi stessi tratti somatici. E quindi questa curiosità è indispensabile per la conoscenza, e la conoscenza è indispensabile per poi, diciamo, viverti la vita e giocarti la vita con più sale. Torniamo alla ricetta con più peperoncino. Elisabetta, tu hai detto proprio che è liberamente ispirato alla tua storia, tua e di tuo marito. Ma le domande che ci siamo fatte all'inizio, cioè se siamo ancora allo stesso punto di 50 anni fa, quando è uscito il film Indovina chi viene a cena, quando una coppia mista raccoglieva dei commenti negativi o delle perplessità o della diffidenza anche da parte delle persone progressiste. È una cosa che è capitata anche a voi? Forse è una diffidenza che però viene avvertita più che esplicitata. Cioè un tempo si poteva, 50 anni fa immagino, alcuni commenti razzisti erano lecitamente espressi. Oggi credo che la diffidenza sia più celata, sia più c'è un politically correct che per fortuna, diciamo, non rende più lecito esprimere in maniera evidente la... poi magari lo fanno sui social, però diciamo personalmente io come autrice del libro, come ispiratrice della storia, non ho subito per fortuna nessuna forma molto evidente. È anche vero che lo sposo vero africano adesso è a Londra e mi dice che si è accorto di quanto gli italiani sono razzisti quando è andata a Londra, cioè ha avvertito una che non se ne, non se ne, non aveva mai giudicato così la sua esperienza, la sua lunga esperienza italiana, però perché lui adesso, quanto è stato in Italia? 20 anni. 20 anni. Adesso da quanti anni a Londra? Due. E quindi a ritroso dice: io torno in Italia, faccio vedere all'aeroporto il mio documento, che è il documento italiano, sì, cittadinanza italiana, esatto, e mi fanno e mi tengono lì un quarto d'ora, mentre tutti gli altri, visto che lì, e mi fanno delle domande che non hanno senso, come commenta lui. A Londra questa cosa non succede. In generale, la cucina senegalese è considerata fra le migliori di tutta l'Africa. Gli ingredienti base di ogni piatto sono il pollo o il pesce, accompagnati da riso e verdure. Il piatto nazionale è il tiebou dien, riso bianco o rosso, cotto nel sugo dove è stato precedentemente cucinato il pesce con aglio, cipolla, concentrato di pomodoro, spezie piccanti e vari tipi di verdure. A cena vengono serviti i piatti più leggeri e più vari, insalate accostate a carne, pollo o pesce, risi cucinati in modo simile al risotto italiano, couscous o pasta accompagnati da carne e sugo di cipolle e infine il tradizionale cerè, couscous senegalese a base di miglio che può essere consumato con una salsa a base di carne e verdure o servire da base per la preparazione di dolci. Il pranzo è accompagnato da un vino di palma o dal bissap, un infuso di carcadè servito freddo. A fine pasto, dopo la frutta, viene servito il tè senegalese. Il tè si chiama ataya, è infuso di tè verde, menta fresca e acqua, preparato in una teiera di metallo, scaldata sulla carbonella, dalla quale poi il tè viene versato nel bicchiere partendo da molto in alto, in modo che lo zucchero si sciolga e formi una schiuma in superficie. Il caffè è simile a quello turco, con l'aggiunta di pepe o cardamomo. Grazie Elisabetta Jankovic, autrice dello Sposo Africano, questo romanzo pubblicato per Il Cairo. Grazie per essere stata con noi. Grazie a tutti e un saluto grande. Grazie a Carmelo Lauricella per la parte tecnica, a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo alle 21. Io vi ricordo la pagina Facebook e la mail indovina@radio24.it. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.